This is the Las Vegas story. The story of a couple of great... Benvenuti a questa puntata di giovedì 1 agosto di Zardins Magnetics. Come detto, siamo in questa puntata agostana di Zardins Magnetics. Staremo in compagnia per un'ora e mezza, come sempre trasmettiamo dagli studi di Radio De Furlane a Udine. Questa sera siamo usciremo un po' dai confini dell'anarcopunk e dell'hardcore. Un salto indietro di 40 anni, puntata praticamente monografica per la musica, con questi Gun Club. Told you, yes, we are animals too. Be alive or get it back. Ascoltato Walking with the Beast, Eternally is Here, e adesso ascolteremo The Stranger in Out Town. Sono brani dell'album del 1984 The Las Vegas Story. Last time. my face like this. This stranger in our town, he wants us in another town, with insects on his face like this. Sì, un saluto a tutte e a tutti anche da parte mia. E Jardins Magnetics, non l'abbiamo detto, ma insomma lo ribadiamo, trasmissione così condotta dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione del Friuli di Trieste. Allora, io oggi volevo iniziare con due dichiarazioni di solidarietà. E ricordo che mercoledì 31, quindi ieri, c'è stata una protesta rivolta anche all'infame carcere di Udine. E, ricordiamo che appunto il sovraffollamento a Udine corrisponde al doppio delle presenze rispetto a quelle previste, diciamo, dalla struttura. E in questi giorni c'è stato anche un problema all'impianto idrico. Vengono i brividi a pensare, perché ricordo che già un paio d'anni fa c'erano stati problemi, cioè non c'era l'acqua dentro e quindi la situazione, insomma, era veramente sul limite. E vabbè, diciamo, i notiziari così ufficiali parlano di un fuoco all'interno e quindi di un fumo e di una situazione per cui alcuni, un certo numero di detenuti sono stati trasferiti dalle celle fino al cortile, e uno in particolare risultava così avere un malessere a causa del fumo. E sì, tutta la nostra solidarietà, insomma, a questi detenuti in rivolta. E intanto, così poi chiaramente ci sarà modo di manifestare la nostra solidarietà anche in maniera più attiva. E un'altra dichiarazione di solidarietà, ci spostiamo da qui dove abitiamo noi allo Stato di Israele. Ci sono tre giovanissimi refusnik, tre diciottenni, Orian, Itamar e Yuval, tre ragazzi di Tel Aviv, che hanno deciso di rifiutare di arruolarsi nell'esercito israeliano proprio come forma di renitenza, insomma, contro lo Stato israeliano e quello che sta facendo a Gaza. E quindi questi tre giovani subiranno, insomma, un processo e probabilmente una carcerazione. Hanno fatto questa scelta ottima, insomma, e coraggiosa. E lunedì 5 agosto, proprio davanti al campo di arruolamento di Tel Hashomer, che è appunto, credo, nei pressi di Tel Aviv, ci sarà una manifestazione in loro sostegno. E questa ultima così notizia mi permette di introdurre brevemente, poi magari continuiamo a parlare dopo altri intermezzi musicali, e mi permette di introdurre appunto la presentazione di un opuscolo che è appena uscito, che si intitola Operatori sanitari e tortura nel contesto del genocidio in atto in Palestina. È stato curato dai sanitari per Gaza è un opuscolo che ci è stato così inoltrato da Suad, appunto la compagna che è venuta a presentare il suo libro sulla sua prigionia nel 1983, qualche settimana fa. È un opuscolo importante perché diciamo parla del ruolo della tortura non solo nell'attuale genocidio a Gaza da parte di Israele, ma anche storicamente come è stata applicata dallo Stato di Israele contro i palestinesi, e quindi fornisce diciamo una documentazione anche da un punto di vista giuridico e anche una storia della diversificato utilizzo della tortura insomma nei decenni, e poi arriva anche a svelare diciamo in maniera argomentata e dettagliata la complicità dei sanitari dei sanitari israeliani appunto nel compimento della tortura da parte delle forze armate, delle forze dell'ordine. E, tra l'altro, i sanitari che sono presenti nelle strutture detentive israeliane non fanno parte del Ministero della Sanità, ma sono direttamente collegati, diciamo, al sistema penitenziario. Questo in ogni caso è diciamo una situazione di catena di comando ancora più strutturata. In realtà questo argomento della complicità dei sanitari nel maltrattamento e nella tortura fisica, psicologica, ma anche nella incuria sanitaria, eccetera, è un aspetto che non riguarda solo Israele, lo vediamo insomma costantemente quello che succede nelle carceri. Costantemente c'è questa problematica di una non chiarezza, insomma, quantomeno non chiarezza di posizione da parte dei sanitari e di appunto acquiescenza, sottomissione o complicità con appunto l'aspetto, diciamo, sì, insomma, con le forze, cioè con le guardie penitenziarie, comunque con l'aspetto coercitivo del carcere. E in più, quindi poi vedremo magari alcuni documenti su questa complicità che tra l'altro proprio potrebbero essere tranquillamente così applicati a altre strutture statali, compresa l'Italia. E per finire, questo opuscolo parla anche di un altro aspetto, cioè quello di questa applicazione della tortura e anche dell'uccisione da parte delle forze IDF israeliane contro gli operatori sanitari Gazawi. E questo è stato insomma una roba dal 7 ottobre è una cosa molto grave, cioè tantissimi medici o personale sanitario sono stati appunto catturati, rapiti, deportati in questi campi di detenzione nel deserto, così, e sottoposti a tortura con l'intento proprio di, e qui viene spiegato bene, di annientare le possibilità di esistenza, no, della popolazione, perché cioè di proprio di minare alla base ogni possibilità di esistenza della popolazione. E niente, e poi insomma appunto conclude con un elenco proprio di varie persone autorevoli sanitari che hanno perso la vita o che comunque si sono salvati ma hanno subito appunto questi trattamenti, e così poi dopo magari affrontiamo un po' più approfonditamente. mentre stiamo sempre ascoltando questa sera su Zardins Magnetics questi Gun Club, un gruppo che è esistito tra il 1979 circa e il 1996, quando il loro fondatore è scomparso, questo cantante, compositore, diciamo chitarrista, leader, chiamiamolo così, di questi Gun Club si chiamava Jeffrey Lee Pierce. E stiamo tra l'altro ascoltando un brano che si chiamava For the Love of Ivy, e Poison Ivy era la chitarrista dei Cramps, che era un altro gruppo statunitense dell'inizio della fine degli anni 70, primi 80. Leggiamo un brano da una storia del punk che ho preso in biblioteca. L'arrivo dei Cramps a Los Angeles mi convinse che esistevano parecchi aspetti della cultura americana che meritavano di essere fatti a pezzi, compreso il rockabilly. A parlare così è un altro, l'ennesimo talento finito malamente, Jeffrey Lee Pierce, all'epoca nemmeno ventenne, musicista in erba, presidente del fan club Los Angelino dei Blondie. Sarà però la band di Lux, che erano i Cramps, ad aprirgli gli occhi e a convincerlo a formare i Gun Club. Il sound del quartetto affonda le sue radici soprattutto nel blues e nel voodoo, tingendo di scuro la formula codificata dai Cramps, rendendolo così più personale e particolare. Assieme a Kid Congo Powers, Rob Ritter e Terry Graham, Pierce dà vita a un debutto spettacolare, Fire of Love, pubblicato nell'81 su Slash, e su cui trova spazio un brano come For the Love of Ivy, dedicato alla chitarrista e che stavamo ascoltando, e continuiamo con questa Fire Spirit. happiness in my hand. The sun behind me is a sexual red, and all you're bound to hunt to ghosts are dead. I am not Jack, and I tell you this, I will be your lover and exorcist. In the stillness of the mosquito sunset, you will make love to me to your very best. Hey, yes, I'm not Jack on fire. Hey, your lips kiss Jack on fire. Way back in the Indian days, nothing could drive the heat away. I tried to search and murder of lost enemies. I drive deep into what is never seen. And like Jack, there is a heat to the fight. Like a multi takes a heat to the light. And like Jack, I covered everything that is you. Because of me and you were temporary. A hole by the willow tree, then I will fuck you until you die, bury you and kiss this town goodbye. You'll be unhappy, it will be sad, but it'll be understood that I am bad. One, don't you go and lie to me, cause every day is judgment day with me. Ecco, e allora approfondiamo un po' questo ragionamento sulla complicità medica con la tortura e complicità medica da parte dei singoli operatori, ma proprio dell'Associazione Medica Israeliana. Tra l'altro questi appunto complicità è stata denunciata ripetutamente, ma sia a livello di Stato di Israele sia a livello mondiale, diciamo, queste segnalazioni non sono state recepite, cioè rimangono sempre, diciamo, latenti, non vengono mai prese in considerazione. Allora, intanto, in questo opuscolo appunto ci viene detto: i medici diventano agenti del colonialismo. La partecipazione dei professionisti medici alla tortura non è una contraddizione. Indipendentemente dall'etica o dalle leggi, il personale medico israeliano opera innanzitutto come agente del regime coloniale, dei coloni israeliani. Sotto il colonialismo tutti gli aspetti della società colonizzatrice hanno uno scopo: favorire l'oppressione delle persone colonizzate. La professione medica non è diversa. Nel suo saggio Medicina e colonialismo, Franz Fanon delinea cosa significa praticare la medicina in un contesto coloniale. Parlando dell'Algeria francese scrive: il medico stesso ha deciso di escludersi dal cerchio protettivo che i principi e i valori della professione medica hanno intrecciato intorno a lui. In una data regione il medico si rivela talvolta come il più sanguinario dei colonizzatori, così diventa il torturatore che sembra essere un medico. Fanon continua: sul piano strettamente tecnico il medico europeo collabora attivamente con le forze coloniali nelle loro pratiche più spaventose e più degradanti. E appunto, parlando appunto di che cosa avviene, cioè di come si viene agita questa complicità medica nella tortura, ci può essere una partecipazione attiva o passiva. Gli esempi di partecipazione attiva includono l'uso di conoscenze mediche per supportare le tecniche di interrogatorio, la supervisione dell'uso di sostanze chimiche per la tortura, la fornitura di rapporti medici falsi. La partecipazione passiva consiste ad esempio nella mancata denuncia delle torture e diciamo che viene riconosciuta meno spesso, quindi con una sorta di omertà. E allora, c'è una associazione, diciamo, di palestinese che si occupa di violazione dei diritti umani, che si chiama Adamer, che ha fatto questo studio dove ha dettagliato, insomma, cosa avviene durante l'interrogatorio del prigionieri palestinesi considerati terroristi, ma dopo, diciamo recentemente, dopo il 7 ottobre, non solo quelli considerati terroristi. Prima dell'inizio dell'interrogatorio di un detenuto, i medici israeliani collaborano con quelli che porteranno avanti l'interrogatorio stesso, dello Shin Bet, per certificare o approvare che sia idoneo ad essere sottoposto alla tortura. Per tutta la durata dell'interrogatorio, un medico fornisce il via libera affinché la tortura possa continuare. Ma l'autorizzazione alla tortura va oltre un superficiale controllo sanitario. Nei loro esami gli operatori sanitari cercano i punti deboli fisici e psicologici da sfruttare nell'individuo. Queste debolezze vengono condivise attivamente con gli agenti dell'interrogatorio per aiutarli a spezzare lo spirito del prigioniero. I medici israeliani nascondono anche le ferite che osservano durante le torture. Invece di adempiere alle proprie responsabilità etiche nel denunciare gli abusi, i medici falsificano o si astengono dal documentare gli effetti fisici e psicologici della tortura sul corpo e sulla mente dei detenuti, privando le vittime della possibilità di utilizzare potenziali prove contro i loro torturatori. Poi si parla anche di questo campo di detenzione SDE Teiman, che è stato, diciamo, un po' preso di mira, sotto osservazione. Ci sono stati anche dei come si dice, servizi della CNN che aveva che si è avvalsa, insomma, di informatori che erano proprio dei medici che avevano partecipato, cioè erano interni a questo sistema, ma si dissociavano appunto dalla complicità con i torturatori. E appunto questi testimoni, insomma, dicono proprio apertamente che il personale medico fornisce cure a pazienti immobilizzati e bendati, esegue procedure mediche invasive senza che i pazienti ricevano in anticipo spiegazioni sufficienti o siano in grado di dare il loro consenso, si rifiuta di somministrare cure, si rifiuta di somministrare farmaci antidolorifici e li fornisce esclusivamente nei casi in cui possano aiutare le forze di sicurezza a interrogare i pazienti. E poi inoltre, appunto, al personale medico viene chiesto di non denunciare o documentare, casi di violenza o tortura di cui è stato testimone, e anzi viene fornito al personale medico una sorta di protezione, diciamo di limbo in cui possono agire. E questi luoghi di detenzione, appunto come l'SDE Teheman, vengono anche considerati un paradiso per gli stagisti, cioè per quei praticanti che non sono ancora insomma, che stanno facendo lo stage, appunto, e che possono lì tra virgolette imparare il loro sporco mestiere. E, non mi dilungo, magari vi ripeto, l'opuscolo si intitola Operatori sanitari e tortura nel contesto del genocidio in atto in Palestina, curato dai sanitari per Gaza. Potete trovarlo nello spazio autogestito di Via De Rubeis, insomma durante le iniziative. E non può non venire in mente, però, rispetto a questa partecipazione attiva o passiva dei medici alla tortura e alla incuria sanitaria che equivale a tortura, non ci si può dimenticare quello che denunciano, insomma, e hanno denunciato i prigionieri, parliamo dell'Italia, che hanno subito tortura appunto negli anni, e cioè di questa presenza, anche se non potevano vederli, ma di questa presenza percepita di personale sanitario anche durante le sessioni di tortura stessa, quel personale sanitario appunto che impediva di arrivare alla morte per continuare insomma a fare quello che stavano facendo, per permettere ai torturatori di continuare a fare quello che stavano facendo. Ma anche viene in mente, anche oltre all'appunto l'abbandono sanitario generalizzato nelle carceri italiane con poche eccezioni, anche ciò che è successo nel marzo del 2020, no? ai 14 prigionieri rivoltosi che sono morti, in che condizioni questi molti prigionieri sono stati trasferiti, distrutti ormai in fin di vita, da un carcere all'altro, eppure qualche sanitario li ha visti o ha fatto finta di vederli o comunque non li ha visti e ha autorizzato il trasferimento, oltre a tutte le viene in mente Stefano Cucchi, insomma, come esempio paradigmatico, il calvario appunto di svariati prigionieri, che il calvario che svariati prigionieri hanno dovuto subire all'interno delle carceri o delle camere di detenzione dei vari commissariati, appunto nell'omertà e nella indifferenza assassina del personale sanitario. Look what's been done, John. Coming out of the east like rain, Johnny. Bene, stavamo sempre ascoltando questa sera i Gun Club da questo album Fire of Love. Abbiamo ascoltato anche in sottofondo all'intervento sul tortura in Israele. Adesso passiamo a un altro album, sempre più o meno di quegli anni, si chiamava Miami, del 1982. Ascolteremo alcuni brani. Your address embedded in my brain. gesture was too small. Now I look away, look away, look away back to myself. Come detto, questa era l'album Miami del 1982, il brano si intitolava Brothers and Sister. Brother and Sister. E ho abbassato perché voglio passare a una traccia un po' più avanti. Oh, See the watermelon man come. See the watermelon man come. Nella notte tra il 25 e il 26 luglio a Saint-Aurain-de-Gamville abbiamo dato fuoco a un'antenna e a un punto di connessione in fibra ottica e abbiamo spraitato "No giochi olimpici" sulla torre che conteneva i cavi. Non c'è alcuna tregua olimpica, il bombardamento retorico del governo sulla riappacificazione attraverso lo sport, sia a livello geopolitico che parlamentare, è accompagnato da un bombardamento militare in tutto il mondo e da una guerra contro le popolazioni. Di che tipo di tregua, di che tipo di pacificazione stiamo parlando? La dislocazione delle popolazioni più emarginate, l'aumento della presenza della polizia nella capitale, lo sviluppo di una sorveglianza panottica in tutte le direzioni, basata sull'installazione di nuove telecamere di videosorveglianza e sull'uso repressivo dell'intelligenza artificiale? Oppure il trasferimento massiccio di denaro pubblico al settore privato? Una situazione che nel 2004 ha rovinato la Grecia, facendola precipitare nella crisi finanziaria e nell'austerità. Quale tregua dunque? per i prigionieri Kanak deportati nelle carceri francesi, ai quali viene negata l'autonomia politica, affinché le nostre compagnie minerarie possano continuare a rimpinzarsi di nickel. Bisogna garantirsi un posto al sole per i nuovi mercati delle auto elettriche e delle tecnologie verdi. È anche per questo che abbiamo preso di mira uno snodo di connessione in fibra ottica, un anello essenziale della ristrutturazione capitalistica e della guerra tecnologica in corso. Dietro la celebrazione degli atleti che corrono spalla a spalla, si accumulano le bombe della guerra mondiale. Dietro ogni sorriso sportivo, un canino affilato. Dietro ogni medaglia, miseria e rovina. Gli attacchi hanno già iniziato a cantare contro questi cinici festeggiamenti. Allo stadio, come nella vita, prendiamo la via della resistenza. Firmato dei cattivi giocatori, la fonte è lilindimedia.org. Allora, durante gli interventi, cioè durante l'ultimo intervento, abbiamo ascoltato in sottofondo questa Bad Indian, sempre dall'album Miami dei Gun Club. C'è un ricordo di Antonio Baciocchi, che era uno che scrive così di musica, è il batterista di un gruppo neopsichedelico italiano degli anni 80, e scrive: il primo dicembre del 1983 i Gun Club arrivarono anche al My Way di Fiorenzuola, regalando al folto pubblico un concerto indimenticabile e travolgente, grazie anche alla chitarra esplosiva di Kid Congo Powers, già nei Cramps e successivamente protagonista di un'ottima carriera solista. Ma fu ovviamente Jeffrey Lee Pierce a catalizzare l'attenzione, con gli occhi spiritati, avvolto da un impermeabile nero e stivali da cowboy, i capelli stinti quasi bianchi spettinati, con un cappellino da marinaio calcato sulla testa. L'incontro in camerino con la band fu emozionante, ma regalò da parte di tutti i componenti, incluso Jeffrey, simpatia, cordialità, empatia. Li rividi a Londra al Dean Walls in dicembre, preceduti dai selvaggi australiani Scientists, quasi loro allievi, per quanto più vicini agli Stooges, in un concerto efficace, lucido, preciso. E poi continua con i Cramps, però di un altro momento, insomma qualche anno prima. E passiamo a un album invece del 1987, si chiamava Mother Juno. Ascolteremo qualche brano da questo album. all okay. Abbiamo ascoltato dall'album, come dicevo prima, Mother Juno del 1987 di questi Gun Club. Abbiamo ascoltato Lupita Screams, Yellow Eyes, che sta andando ancora per gli ultimi, insomma, le ultime battute, e adesso arriva The Breaking Hands. E non farò ulteriori pistolotti, volevo solo, mi ha ispirato insomma ascoltare Gun Club mentre così preparavo la scaletta. Mi è venuto in mente questo brevissimo però memorabile frase, perché è un racconto che inizia e si conclude in 5 righe di Franz Kafka e si chiamava Desiderio di diventare indiano. Se si potesse essere un indiano, subito pronto, sul cavallo in corsa, obliquo nell'aria, continuamente fremendo sul suolo che freme, sino a lasciare gli speroni, perché non ci sono speroni, sino a gettare le redini, perché non ci sono redini, e appena si vede la terra di fronte a sé come una landa liscia e rasa, ormai senza collo né testa di cavallo. Sì, e dopo appunto questi inattesi cattivi giocatori che hanno, se la sono presa con un'antenna, con i cavi di fibra ottica contro i giochi olimpici, restiamo in Francia e appunto diamo parola a a un'intera delegazione in attesa, cioè questa delegazione in attesa che ha rivendicato i sabotaggi che hanno colpito in 4 punti le linee del TGV, appunto la linea alta velocità francese, paralizzando per parecchio tempo i trasporti da e verso Parigi. La chiamano festa, noi ci vediamo una celebrazione del nazionalismo, una gigantesca messa in scena dell'assoggettamento delle popolazioni da parte degli stati. Dietro ad un'atmosfera ludica e conviviale, i giochi olimpici offrono un campo di sperimentazione per la gestione poliziesca delle folle e il controllo generalizzato dei nostri movimenti. Come ogni grande evento sportivo, sono ogni volta anche l'occasione per venerare i valori che fondano il mondo del potere e del denaro, della competizione generalizzata, del rendimento a tutti i costi, del sacrificio per l'interesse e la gloria nazionale. L'ingiunzione di identificarsi con una comunità immaginaria e di sostenere il proprio presunto campo di appartenenza non è meno nefasta dell'incentivo permanente a vedere la propria salvezza nella buona salute della propria economia nazionale e nel potere del proprio esercito nazionale. L'influenza della Francia passa attraverso la produzione di armi, il cui volume di vendite la colloca come il secondo esportatore al mondo. Lo Stato è orgoglioso del suo complesso militare e industriale e del suo arsenale made in France. Diffondere i mezzi del terrore, della morte e della devastazione in tutto il mondo per garantire la prosperità? Senza offesa per gli ingenui che ancora credono alle favole democratiche, lo Stato francese usa la sua panoplia repressiva anche per affrontare la propria popolazione. Per sedare le rivolte dopo l'omicidio di Nahel da parte della polizia nel giugno 2023 o di recente per cercare di fermare la rivolta anticoloniale a Kanaky. Finché esisterà, lo Stato non smetterà mai di usarla per combattere coloro che sfidano la sua autorità. Le attività delle imprese francesi nel mondo rendono sempre più manifeste le devastazioni sociali e ambientali che il sistema capitalista produce, quelle necessarie a riprodurre l'attuale organizzazione sociale e quelle inerenti al progresso scientifico e tecnologico. Progresso che percepisce la catena di catastrofi passate, presenti e future solo come una opportunità per un balzo in avanti. Total continua a saccheggiare e spogliare nuove terre in cerca di petrolio e di gas di scisto. Africa orientale, Argentina, eccetera. Sotto la copertura della sua nuova etichetta verde, l'industria nucleare e l'esportazione del know-how francese in questo settore ci garantiscono a più o meno breve termine un pianeta irradiato, quindi letteralmente inabitabile. Nient'altro che un'altra crisi da gestire per i promotori dell'atomo. Loro, che non possono fare a meno della cooperazione con lo Stato russo attraverso il colosso Rosatom e del sostegno del suo esercito per reprimere la rivolta nel 2022 in Kazakistan, importante paese fornitore di uranio, questo materiale che alimenta i 58 reattori francesi. E allora, qual è il costo umano, sociale e ambientale che garantisce a qualche privilegiato di spostarsi velocemente e lontano in TGV? Infinitamente troppo. La ferrovia, d'altronde, non è un'infrastruttura banale, è sempre stato un mezzo per la colonizzazione di nuovi territori, un passo preliminare per la loro devastazione e un percorso ben tracciato per l'estensione del capitalismo e del controllo statale. Il cantiere della linea denominata Tren Maya in Messico, al quale collaborano Alstom e NGE, ne è un buon esempio. E le batterie elettriche indispensabili alla pretesa transizione energetica? Parlatene ad esempio con i lavoratori della miniera di Bouazer e con gli abitanti delle oasi di questa regione marocchina che stanno subendo le conseguenze della corsa all'oro del XXI secolo. Renault vi estrae i minerali necessari a fornire una coscienza pulita agli ecologisti delle metropoli, a scapito delle vite sacrificate. Parlatene con i popoli delle foreste dell'isola di Halmahera, nel nord-est dell'Indonesia, con gli Ongana Manyava, che sono disperati all'idea di veder distrutta la foresta in cui vivono sull'altare della transizione ecologica. Lo Stato francese, attraverso la società Hermet, partecipa alla devastazione delle terre finora risparmiate. Allo stesso modo non molla la Nuova Caledonia per continuare a strapparle il prezioso nickel. E dunque oggi risuonino, attraverso il sabotaggio delle linee TGV che collegano Parigi ai quattro angoli della Francia, il grido Donna, vita, libertà dall'Iran, le lotte degli amazzonici, i fotti la Francia che provengono dall'Oceania, il desiderio di libertà che giunge dal Levante e dal Sudan, le battaglie che continuano dietro i muri delle prigioni e l'insubordinazione dei disertori del mondo intero. A coloro che rimproverano a questi atti di rovinare il soggiorno dei turisti e di perturbare le partenze per le vacanze, rispondiamo che è ancora così poco. Così poco se paragonato a quell'evento al quale desideriamo partecipare e che auspichiamo con tutto il cuore: il crollo di un mondo basato sullo sfruttamento e sul dominio. Allora sì, che avremo qualcosa da festeggiare. Questa rivendicazione è stata pubblicata integralmente sul blog Reporter e parzialmente sul giornale francese La Provence e sul New York Times. In a pot of souls. Bene, siamo quasi ai titoli di coda di questa puntata del 1 agosto 2024 di Zardins Magnetics, trasmissione messa in piedi dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e Repressione del Friuli di Trieste. Per contattarci abbiamo la mail liberetutti@autistiche.org. Sembra complicato, ma non è così complicato contattarci. E infatti normalmente ci contattate. E esiste un canale Telegram dove poter ricevere notifiche, insomma, quando viene messo online l'audio della puntata, per riascoltarla o per ascoltarla quando, appunto, siete in possibilità di ascoltarla diretta. E il canale si chiama Zardins, il blog è zardinsmagneticsradio.noblogs.org. Per chi vuole raggiungerci carta e penna, deve scrivere ad Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 129 34121 Trieste, e così, appunto, riceveremo la corrispondenza o i pacchi o quello che arriverà. Che cosa aggiungere? Speriamo, insomma, che questa scelta musicale un po' eretica rispetto al standard nichilistici e così casinisti non abbia trovato, insomma, contrarietà completa, ma comunque, ecco, è anche un'occasione così per rivisitare, dai, anche queste figure outsider del mondo un po' di quel punk, diciamo, che ha ceduto alle mode, al sistema, diciamo, industriale della musica, come industria dello spettacolo, eccetera. Che però, appunto, sono delle figure di, fra virgolette, di perdenti, di falliti, nel senso che non hanno potuto raggiungere in vita, quantomeno, gli standard di quel mondo lì, quindi hanno fatto letteralmente la fame, praticamente, quello che avevano l'hanno dissipato in sostanze sì, in sostanze, diciamo, per psicotrope, e per distruggersi il corpo, e nel loro caso, comunque, ecco, niente, queste sono, appunto, la loro rilevanza è purtroppo arrivata dopo che sono ci hanno lasciato senza raggiungere neanche i 40 anni. Sia nel caso di Jeffrey Lee Pierce, sia come anche nel caso di Johnny Thunders. Non mi resta altro che augurarvi, insomma, un buon proseguimento e darvi appuntamento per il prossimo giovedì. Come sempre ci ritroveremo su questi canali di Zardins Magnetics. E ascoltiamo ancora qualche minuto di questi Gun Club. Everybody's been there before, but wow, what a time she had. She had to do the crime dance. Wow, what a time she had. She had to do the crime dance. But she really didn't think that she would make it. But she got wild in Hollywood. She really dragged her down in your basement and left her soul to us. There is no fire in your glass. There is no meaning when you're done. And one day you will find out what kind of monster you become. And were you really thinking when you got wild? Christmas in the city.